si yo y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Sono innanzitutto molto grato a coloro che ieri sono adoperati anche in diretta radiofonica alla terapia del mio malessere che perdura tuttora. La mia mascella è imbrigliata, una sorta di tumefazione che rende difficile l'eloquio, ma cercherò per quanto possibile di arrivare alla fine della trasmissione anche oggi, anche se il tema che tocchiamo è piuttosto scabroso, è scivoloso, è viscido, è qualcosa che sicuramente potrebbe crearmi dei problemi. Cercherò di trattarlo con il dovuto senso di rispetto per le pudibonde orecchie di chi mi ascolta, ma questa mattina trovo necessario, anzi doveroso, trattare una categoria dell'essere, anzi una categoria dell'essere donne, anzi una categoria umana con la quale normalmente si ha a che fare, si viene lambiti, si viene sfiorati, a volte si viene anche stritolati. È la categoria, dirò questo termine soltanto una volta, poi lo spiegherò nel suo etimo profondo, delle mignotte. Non l'hai notato? Ha un gonfio nella tasca. Sarà una scatola di pasticche. No, era un gonfio quadrato come un astuccio per un anello. Io credo che è un regalo per me. Senti, credo tu sia l'unica al mondo che stando sul palcoscenico coi riflettori negli occhi riesce a vedere un brillante dentro la tasca di un uomo. Luce delle pupille mie, non ti accomodi? Molto volentieri. Ciao, Guest. Buonasera, Dorothy. Sei stata stupenda stasera, cara. Semplicemente stupenda. Sei stata magnifica. Grazie. Brava anche lei, eh? Signor Esmond. È giusta la grandezza. Oh, non sono mai troppo piccoli. Dici che è troppo piccolo, Dorothy. Di noccioli di pesca ne ho visti più grossi. Babà, mi hai fatto la bimba più felice del mondo. Io non so come tu faccia. Non metterai del cloroformio nel rossetto? Dorothy, il signor Esmond e io ci si sposa. Guardate quanto è impregnato di terrificanti doppi sensi questo delizioso filmetto degli anni 50 con Marilyn Monroe, gli uomini feriscono le bionde. Il gonfiore che la soubrette vede nei pantaloni di quello che poi diventerà suo marito è un collier di diamanti, ma guardate, estrapolato dal contesto del film, dalla storia, anche una storia delicata, carina, di ragazze che insomma si danno da fare, usano al meglio ciò di cui la natura le ha generosamente dotate per assicurarsi un futuro di serena tranquillità, di placida opulenza. Non hanno altra risorsa che la loro bellezza, che le loro forme fisiche, che la loro capacità di sedurre, e la mettono con impegno a frutto con uomini che non chiedono di meglio che essere sedotti, che essere turlupinati, che essere presi in giro, che dare ciò che loro hanno come ben di sostentamento in cambio di quella gratificazione, quel piacere, di quella vertigine di poter essere maschi irresistibili, uomini seduttori, begli uomini che queste fanciulle generosamente offrono a loro. In questo rapporto di interscambio, dove da una parte una donna usa il suo fascino, la sua seduzione, la sua carnalità, la sua capacità di piacere, la sua magnetica possibilità di attrarre a sé uomini, e d'altra parte un uomo consapevole dei suoi limiti fisici, dei suoi limiti strutturali, della sua schifezza esistenziale, entra in questo gioco di seduzione in cambio da questa donna ben di sostentamento. Questo tipo di rapporto, che è antico come il mondo, classifica la persona di sesso femminile che entra in questo rapporto con un termine, con tantissimi termini, cortigiana, profittatrice, prostituta, maliarda, una serie di termini che affondano addirittura nella storia sacra. La storia sacra è piena di donne che si concedono in cambio di favori dando il proprio corpo. Ma questa mattina, lo userò con molta discrezione, ci concentriamo attorno a un termine che è un termine dispregiativo nel dialetto romanesco, ma ormai grazie ai cinepanettoni è diventato di uso comune, si è allargato, non è nemmeno più riferito soltanto a donne. Il termine che ho appena citato prima è riferito anche a un uomo. Dire quello lì, sai, è una mignotta, vuol dire che è uno che magari ha molte relazioni, è un consulente d'azienda molto bravo, molto importante, sa bene come usare la seduzione per ottenere appunto dei risultati. È una parola carina perché chi dà l'accezione esterofila, che viene dal francese, questo termine, da favorita, cortigiana, deriva dal francese mignoté, che vuol dire carezzare, da mignon, che è il favorito, è il piccolo cicisbeo. Altri dicono che derivi da una triste usanza che si aveva nei registri dei punti di raccolta dei poveri ragazzini abbandonati alla ruota degli innocenti, di scrivere figlio di mater ignota, quindi M puntato ignota, figlio di mignota, quindi viene poi figlio di mignotta. Chiaro, attribuito a una donna è un termine brutto, dire una donna, usarle questo termine, significa che una donna esercita una delle più tristi e riprovevoli professioni, quella di dare il suo corpo in cambio di denaro. Ma nel tempo, nell'uso comune, nella contaminazione tra classi sociali, tra generi e linguaggi, è abbastanza affievolito questo termine. Ma noi questa mattina lo useremo nella sua accezione più consueta. Nel mio cuore sono una brava ragazza, ma a volte devi essere una puttana per avere quello che vuoi. Sì, l'uomo che mi piace è l'uomo di potere. Comunque, quando faccio del sesso, non concedo mai niente a un uomo. Concedo qualcosa a me stessa. Diciamola tutta. Le donne che hanno successo lo devono loro intraprendenza, sono arrivate così in alto. Conosco le regole del gioco e penso di avere stesse qualità e anche fisiche. Perché allora non devo farcela anch'io? 800 24 00 24. Questa mattina annoveremo questa puntata in una delle tante trasmissioni di servizio che presenteremo un manuale scritto con dovizia di particolari, con supporto scientifico, con esperienza di vita, con uno spirito di osservazione, a Deborah Ferretti. MGM, il manuale delle giovani mignotte. Ogni donna è seduta sulla sua fortuna. Deborah Ferretti, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei, se possibile questa mattina, declinare questo termine con un'accezione che forse infastidisce un po' meno le orecchie delle nostre ascoltatrici, fa tremare un po' meno nelle grisaglie i nostri ascoltatori. Lo chiameremo le giovani datrici strategiche, sei d'accordo? D'accordissimo. Allora, perfetto. Perché tu hai scritto il manuale delle giovani datrici strategiche? Ce n'era assolutamente bisogno, perché non se ne può più di sentire le femministe, post-femministe, le epurate del 68 ancora dire non si può che quella velina arrivi per la scorciatoia, non si può che il dottorato di ricerca sia dato alla più bella, all'amante del professore. Non è assolutamente così che funzionano le cose. Ma così funziona esattamente anche nei partiti, anche nei sindacati, anche nei collettivi, anche nelle riunioni scolastiche, anche nelle aziende, ovunque ci sia un possibile mercimonio fra uomini e donne, ci sono donne che impropriamente, ingiustamente o giustamente fanno anche uso della loro seduzione. Dire che ciò non esiste è totalmente ipocrita. Ma al di là del ritorno economico o della posizione di lavoro, lo facciamo nel quotidiano. Il trancio di pizza con più mozzarella, saltare la fila in posta, farsi annullare la multa, riuscire ad ottenere, che ti posso dire, la riparazione della caldaia scaduta in garanzia però, oppure le nostre spese condominiali fatte aggirate, lo facciamo sempre, appena possiamo trovare una scorciatoia, sbattendo gli occhi o esercitando appunto tutte quelle che sono le nostre caratteristiche femminili, lo facciamo. Allora, la dazione strategica ha una serie di sfumature infinite. Uso il termine dazione, che è un termine un po' desueto, andava di moda ai tempi di Tangentopoli. La dazione era la tangente, era il prezzo improprio per ottenere un favore. Quindi mi sembra che funzioni questa ricollocazione del termine. Allora, la datrice strategica, la giovane datrice strategica, ha una serie di possibilità di usare il suo fascino, il suo essere femmina. Non necessariamente l'essere bella o fascinosa. No, tanto assolutamente. La femminità prescinde dalla bellezza e anche dall'età. Sdoganiamo che si debba essere giovani, bionde, attraenti, con il seno rifatto. Anzi, probabilmente si affinano tecniche di seduzione quando gli elementi fisici, gli elementi estetici sono meno evidenti. Allora, si può essere datrici strategiche a qualsiasi età e in qualsiasi forma fisica, questo già può essere un conforto. Il manuale che tu hai scritto serve per riconoscere le datrici strategiche, quindi guardarsene, quindi un manuale per uomini, per apprendere le tecniche segrete della dazione strategica per chi non ne fosse provvisto. Io sento, vedo già i commenti delle mie ascoltatrici su Facebook, che sono divisi in due filoni. Quelle che dicono, facendo un triplo salto mortale, ironizzando, che bello, finalmente anch'io riuscirò a fare quello che fanno le mie colleghe passandomi sopra, quello che fanno le mie amiche rubandomi gli uomini. O quelle scandalizzate che dicono, come Cristina, cretina, ridicolo che si possa scrivere un libro del genere, ridicolo pensare di analizzare fascino e seduzione con le parole della banalità e volgarità quotidiana. Ma fascino e seduzione sono un'altra cosa rispetto alla d'azione strategica. Assolutamente sì, comunque le inflessibili e le integraliste sono scandagliate in maniera molto meticolosa nel manuale, che guarda alla società e quindi guarda sia alle datrici strategiche, esatto, che esercitano senza gli assilli papalini o falsi pudori, e invece coloro che si arroccano in posizioni che davvero trovo sconvenienti e poco utili alla causa, sia alla loro che a quella dell'andamento del mercato. Userò un altro termine un po' cattivello, sgradevole, ma che le mie ascoltatrici usano normalmente. La datrice strategica ha qualcosa a che fare con colei che viene chiamata gentilmente profumiera, o in termini un pochino più crudi figa di legno, cioè colei che usa il suo fascino, non arriva mai però alla soddisfazione dell'oggetto delle sue attenzioni? Quella è una datrice strategica estremamente abile, quella che volgarmente te la fa annusare e non arriva mai allo scambio vero. Sì, bisogna apprendere molto da questa tipologia di professioniste. Normalmente dopo un lasso di tempo ragionevole occorre anche lo scambio carnale, è imprescindibile. Quindi è impensabile che una datrice strategica possa per tutta la durata dell'esercizio della sua attività limitarsi ad ammaliare, a gettare reti, ad ammiccare, a promettere. Arriva il momento del re d'azione. Guarda, non è proprio così, perché se tu pensi al cavalier servente, che ogni ragazzina tra i 13 e 18 l'uomo anni trastullo lo deve avere, è un po' come la macchina scassata che dà in mano al neopatentato, no? Deve prendere un sacco di botte, però intanto la fa esercitare. Il cavalier servente è necessario, e il cavalier servente è quello che va sempre in bianco. Io ho una vasta memoria di amiche che mi raccontavano di uomini che le accompagnavano. Dice: quello, sai, è tanto innamorato di me, intanto la viene a prendere, la porta, l'accompagna, e anche il misero e lacerato confidente di tutte le sue avventure performative, perché il cavalier servente è colui che si sorbisce ore e ore di descrizione di accoppiamenti mirabolanti, soffrendo come un cane, dicendo: sì, ti capisco, dando anche dei consigli. Ma comunque il cavalier servente mi pare che sia soltanto una soddisfazione narcisistica della datrice. In realtà lo scopo è un ben altro. Cominciamo a vedere innanzitutto quali sono le categorie di uomini più sensibili e più vulnerabili alla dazione. Gli uomini sono tutti quanti sensibili. Hai ragione. Guarda, no. Devo dirti che recenti studi hanno dimostrato che la pellicetta, cioè la merce della datrice strategica, interessa eterosessuali, omosessuali, lesbiche, transgender, tutte le categorie umane sono interessate. Quindi diciamo che la seduzione non guarda genere, non guarda necessità. È qualcosa di magnetico che è nell'aria, che se ben usato naturalmente può cambiare le sorti del mondo. Ripeto il numero 800240024. Questa mattina parliamo di una categoria umana che può essere riprovevole, può essere degna della massima discriminazione, che però è ben presente. È la categoria delle datrici strategiche. Sono le donne che hanno piena consapevolezza del potere che ha una donna per il suo fascino, per il suo essere donna, per il suo magnetismo, e lo usa in maniera propria per ottenere dei vantaggi. È inutile dire che questa cosa è sbagliata, fa parte di un pensiero oscurantista e passato. L'umanità non è riuscita a debellarla dalle sue fila, quindi evidentemente ha una sua funzione sociale. 800240024. Quale esperienza avete voi della dazione strategica? Vi siete mai impegnate in questa attività? O perlomeno avete mai avuto limitata la vostra felicità, il vostro lecito desiderio di espandervi socialmente, economicamente e felicemente nel mondo dell'umanità, grazie o purtroppo per colpa di giovani o anziane datrici strategiche? Allora, come c'è andata? Benino. Quanto benino? Circa 80.000, più la macchina. Tutto qui? Ho vissuto 4 mesi in un albergaccio senza la TV, viaggiavo per così poco. Oh, sono stufa di queste bidonate da 4 soldi e per di più ho dovuto baciare quel viscidone. Non era così male. Comunque, incasseremo di più la prossima volta. Ho in mente Seattle, forse San Francisco. Mamma, ricorda il nostro patto. Non ci sarà una prossima volta, era l'ultima. Vado per la mia strada. Otto 0024 0024, molto divertente questa mattina. Dunque stamattina parliamo dei problemi che maggiormente affligge l'umanità, le disturbatrici di matrimoni, le disturbatrici di unioni, coloro che passano avanti rispetto alle qualità professionali delle loro colleghe, e coloro che sono fastidiosi in ogni festa, in ogni invito, passando per strada. Chiunque di voi abbia una moglie, una fidanzata, una compagna di vita, saprà che esiste un sesto senso nelle donne nel riconoscere la datrice strategica nel raggio anche di chilometri del passaggio del proprio uomo. Immediatamente si sente come colpita, come minacciata, e voi nella vostra ingenuità, nel vostro essere ancora all'occhi, non ve ne siete rese conto di ciò che vi si sta avvicinando, ma già la vostra donna l'ha individuata, l'ha capita, perché forse probabilmente a sua volta anche lei ha una venatura di d'azione strategica, una propensione alla d'azione strategica, o esiste una possibilità di riconoscimento di questa qualità. Questa che in realtà è una molla profonda che muove l'economia, che muove la cultura, che muove il pensiero, che muove al di là del dispregio delle quote rosa, delle presenze nei luoghi di potere, nei luoghi strategici, nei luoghi di decisione, è questa sorta di sottile onda che riesce a condizionare il mondo maschile. Beh, è su questo argomento che mi sembra così vicino all'esperienza di ognuno, vedo un gelo di reazione, vedo che nessuno chiama, nessuna donna sembra essere toccata nel vivo da una sua collega datrice strategica, nessun uomo ha sbattuto la faccia, si è fatto male, si è rovinato, ha perso dignità grazie a una datrice strategica. Se così è, sono fortunato e ho un pubblico veramente di persone integerrime. Deborah Ferretti, che ha scritto il manuale delle giovani datrici strategiche, ci ha appena confermato che in realtà la giovinezza, l'avvenenza fisica, una particolare predisposizione all'affettosità non sono caratteristiche necessarie. Mi fai intanto una velocissima classificazione della datrice strategica, se possibile dare qualche tipo, così magari è più facile riconoscere per il nostro pubblico. C'è la datrice strategica straordinaria, che è quella femmina che ovunque va cattura gli sguardi di chiunque, a prescindere dal modo in cui è acconciata, abbigliata, ha quello charme, quella sicurezza di sé, quella consapevolezza del gioco delle parti, per cui è immediatamente al centro delle attenzioni, immediatamente capisce chi è il leader, la persona sulla quale deve mettere gli occhi, su cui deve intervenire. Poi ti volevo dire questo. Che è pericolosissima. Però nemmeno la riconoscibilità esteriore, una va in giro con tacchi a spillo, calze a rete, trucco e tutto, grazie, la riconosci, la ingabbi, la collochi, questa è terrificante perché molte volte mimetizzata nel golfino comprato al mercatino dai cinesi, eppure sotto palpita la carne di una datrice strategica. La datrice strategica, esatto. Guarda, l'abito non fa il monaco per quanto riguarda le datrici strategiche è verissimo, anzi essere datrice strategica non significa per forza sembrarlo, come siamo abituati appunto il grande trucco vistoso, l'esibizione delle forme, della carne. Questa è sicuramente una strategia seduttiva, molto semplice, molto immediata. Ma diciamo che c'è un grande lavoro di fino e di ingegno, è una grande prova di intelligenza libera. È una questione di DNA, proprio di predisposizione biologica, o si apprende l'arte dell'adazione strategica? Siamo tutte quante per mappa cromosomica datrici strategiche, assolutamente sì, chi più chi meno. Poi ovviamente è anche frutto di educazione, di incontri, di necessità, affinare in maniera fortissima o invece delegare questa diciamo parte che la vita ad insegna. Altro. Sentiamo cominciamo, ecco, degli uomini finalmente che reagiscono. Giuseppe, buongiorno. Pronto? Eccomi Giuseppe. Sì, buongiorno Nicoletti. Lei ha avuto a che fare con datrici strategiche? No, sì, secondo l'opinione della sua ospite tutti i giorni ci imbattiamo in datrici strategiche. Sì, vabbè, ma fa parte della vita. Le donne potrebbero dire altrettanto, ci imbattiamo tutti i giorni con dei lumaconi bavosi che non cercano altro che essere illusi di essere uomini affascinanti. Io sono anche particolarmente, anche in questo momento, sentendo la sua ospite parlare, sta esercitando su di me un sottile fascino di seduzione praticamente. Beh, faccio il provolone adesso con le mie ospite. No, sul serio, no, è una cosa che bisogna dire perché è una cosa che penso, quindi fuori dall'ipocrisia bisogna dirlo. Quindi sarebbe disposto a qualunque largizione? Ma sì, vabbè, rimanendo in questa teoria, in questo sottile gioco di seduzione, perché no, va bene, insomma. Comunque volevo, Nicoletti, volevo chiedere alla sua ospite Volevo porre a lei una domanda, se era possibile. Siamo qua apposta. Per quanto riguarda, no, volevo chiedere cosa pensava di questo nuovo fenomeno, diciamo italiano perché ci riguarda un po' più da vicino, di questo prosperare di locali notturni dove delle, come dire, giovani e carine ragazze, soprattutto dell'est dell'Europa, vengono a concedere questo supporto psicologico ai maschi italiani. Sì, ma lì non è una dazione strategica, è un mercato. Lei parla di escort che si fanno pagare. Penso. No, Nicoletti, non parlo delle escort, assolutamente, non mi riferisco alle escort. Mi riferisco a quelli che vengono chiamati locali dove si pratica la lap dance, piuttosto che night club e tutto quanto. Scusi, lei va in un mignottaio e cosa pretende di trovarci? Le educande? No, volevo sapere un po', che siccome penso che appartengano a una categoria un po' diversa da quelle aspettate. Sì, allora vediamo subito, Deborah Ferretti, rispondiamo al nostro ospite. La domanda la trovo provocatoria perché... Ma sicuramente, infatti la risposta sarà provocatoria, cioè come ci sono le sale bingo dove ci sono persone che vanno ad estrarre i numeri, a fare tombola, ovviamente ci sono estimatori della lap dance e io stessa guarderei volentieri uno spettacolo di lap dance esercitato da una splendida donna. La datrice in sé è una persona, fa una libera scelta, non fa parte nessun flusso, nessun mercato e di nessuna racket di distribuzione. È una non c'è libera tristezza nell'esercizio del... Non direi manco che è una professionista, diciamo che è una poetessa della dazione strategica, chiamiamola così. Conosce l'arte di innescare il desiderio. Faccio danza da 3 anni, sono pochi? No che non sono pochi. Ma lo sai perché tutti vogliono fare televisione? No, perché? Perché dentro ci trovi la gente comune. Per avere successo devi solo saper parlare, saperti muovere, saper sorridere dalla parte giusta. Non è come al cinema che devi saper recitare. A te ti vedo pure al cinema. Infatti sì, io voglio essere la ragazza della porta accanto che arriva dappertutto. A me quello che mi manca è soltanto qualcuno che mi aiuta a incontrare le persone giuste. E adesso qua lo faccio io. Che pensi? 800 24 00 24, finalmente il pubblico si è svegliato. Questa mattina parliamo della datrice strategica, ne parliamo con il manuale per le datrici strategiche, in realtà il termine è il manuale delle giovani mignotte, scritto da Deborah Ferretti, editore Aliberti Castelvecchi. Sentiamo Vittorio. Vittorio, buongiorno. Buongiorno, salve, sono io? Sì, lei Vittorio. Salve, buongiorno. No, pensavo un omonimo tante volte. Non meni il capperlai, andiamo al punto. Va bene, è molto interessante. Io però farei delle suddivisioni. Allora, quelle di cui parlava il precedente ascoltatore che lei ha giustamente definito un mignottaio, le liquidiamo semplicemente pensando che la strategia è molto semplice e tutto sommato condivisibile. Poi c'è un tristissimo mercato dietro, c'è un racket. Basta rileggere però Filomena Marturano e si capisce per quale motivo queste giovani molto spesso hanno questa necessità, non c'è niente da fare, forse non hanno un'altra strada. No? Sì, ma no, a me mette solo tristezza chi le frequenta e il luogo, quindi io passerei alla categoria più vicina alla nostra esperienza. Certo, cioè allora, nessuno parla delle persone, mi scusi Vittorio, vedo che c'è un eludere il problema, cioè lei quante volte ha sbattuto la faccia dolorosamente su una datrice strategica? Ma dai, ma questa è una cosa, datrice o datore strategico? Sì. Perché datore strategico anche chi mette avanti una figlia o chi mette avanti una moglie, no? Cioè, esattamente, ecco, ha introdotto un tema interessante. Ma come no? Più di un'occasione mi sono trovato in situazioni di lavoro in cui si sapeva, era evidente, il comportamento della persona, di conseguenza era evidente, per il quale queste persone erano assolutamente protette da questa dazione strategica, poi vediamo se è fatta o non fatta, come giustamente... Sì, c'è un film di una scellerata commedia italiana in cui mi sembra Jerry Calà assolda una povera ragazza di strada che deve fingere di fare la moglie perché il suo capo si attizzava tantissimo a farsi le mogli dei dipendenti. Esiste evidentemente nella dazione strategica familiare un mercato identificabile. Deborah Ferretti, la datrice strategica può avere una sorta di protettore in famiglia? Assolutamente. O manager familiare? Assolutamente, anche perché diciamo che all'interno della famiglia impari i precetti della dazione e impari proprio come fare. Si trasmette per linea materna, vuoi dire questo? Diciamo di sì, e tra l'altro io non sono assolutamente contraria a insegnare alle figlie come allacciarsi le scarpine, la canzone di Natale, la poesia e anche strategie ed elementi di seduzione. Ma stiamo calpestando un luogo comune che ci massacrerà la vita, cioè tu vorresti dire che dietro ogni datrice strategica particolarmente attiva, attenta ed esperta, c'è sempre una madre che le ha insegnato qualcosa. Le ha insegnato a guardare la realtà, a come funzionano le dinamiche tra uomini e donne, tra donne e donne, uomini e uomini, tra uffici, che ne so, lobby. E sappiamo è interessante, tutti interessante per rispolverare l'antica e vituperata legge della maniglia. Enrica, buongiorno. Buongiorno, io penso che anche da attrici strategiche si nasca, anche. Lei come la pensa? Sì. Io ho avuto diverse colleghe universitarie nel lavoro, le classiche datrici strategiche che faticano la metà di quello che fatichi tu e ottengono tutto con più facilità. E io le ammiro molto, devo dire, perché poi sono quelle che, cioè non è detto che poi sono delle effettive datrici strategiche, riescono pure ad illudere di essere delle datrici strategiche, scusate, e quindi ottengono quello che vogliono senza poi tirare fuori più di tanto. Quindi abbiamo individuato una realtà che esiste, non ce la stiamo inventando. Altro che se esiste. Io la vedo con gli occhi di una sgobbona, perché io non riuscirei mai ad essere una datrice strategica. Cioè lei ha una sua fisiologica avversione alla dazione, sì, strategica. Sì, sì, perché è fuori dalla mia genetica, secondo me. Non riuscirei mai ad esserlo. Ma cosa viene? Un groppo alla gola? Qual è il problema? Ma problema nessuno, di fatto. Però gli faccio un esempio. Agli esami all'università, a secondo di chi era il professore, le datrici strategiche riuscivano sempre molto meglio delle sgobboni. Esiste anche una pubblicistica e un'archivistica di cronaca che poi ha portato nelle aule tribunali la dazione strategica volontaria imposta fra docenti universitari e allievi. Monia, buongiorno. Buongiorno. Lei è stata a lungo una datrice strategica? Io sono stata a lungo. Ma Monia è un nome d'arte o il suo nome vero? No, purtroppo è vero, però vedi che si nasce così con questo nome. Anche Deborah Ferretti ha lo stesso problema. Lo stesso identico, esatto. Sì, nei nomi Monia sono a volte garanzia. Sempre, esatto, e ti dicono sempre, ma ti chiami proprio così? Sì, vi giuro, mai fatto un film porno, ma mi chiamo così. Quindi lei ha praticato la dazione strategica per una parte della sua vita? Io l'ho praticata a lungo e poi ho fatto una di quelle stronzate enormi di andare in analisi per cercare di capire chi ero, perché dovevo sedurre sempre qualcuno, eccetera. E quindi... ha avuto una dazione strategica col suo analista? No, lui però si è scelto apposta di modo che non potesse cadere in nessuna tentazione, ma la dazione strategica, secondo me, è vero che non c'è tristezza, come dicevate prima, e questa è la vera differenza, ma non è che si faccia per ottenere, perlomeno nel mio caso, l'esame universitario piuttosto che il posto di lavoro, cioè perché così è già mestierante, si fa per sedurre e per risolvere questa necessità mostruosa che devi piacere, devi accattivare, quindi si fa col bambino di un anno piuttosto che con l'uomo di 70, piuttosto che con la donna di 50. Quindi la dazione strategica a 360 gradi, lei la dava... Quindi è un lavoro, sì, lavoro, tutti i giorni, dopodiché decidi chiaramente a seconda del tipo di orientamento sessuale a chi la dai in particolare. Sì, ma darla è una categoria dello spirito, adesso non vogliamo entrare crudamente nella dazione concreta. Non crudamente, no, però voglio dire, la dazione è una cosa quotidiana che richiede un lavoro di cesello sulle movenze, eccetera, che è una specie di lavoro, ma non richiede per forza il ritorno dall'altra parte. Ecco, lei invece per quale ragione poi l'ha messa in naftalina e ha smesso di praticare la dazione strategica? Perché a un certo punto ho avuto un problema etico, ho detto ma se faccio così poi non starò mai con nessuno, eccetera, eccetera, veramente. E si è trovata un marito? Mi è trovato un marito che poi mi ha mollato per un'altra datrice molto più brava di me, che invece voleva il suo tornaconto, e quindi adesso mi sto rimisurando con quella che nei geni io ho, con la mia datrice. Certo, ho 40 anni, per cui c'è un problema che adesso vengo ancora, hai voglia dare, volendo ce n'ha di tempo, via. Guardi, io mi sto molto impegnando per ritornare sui miei passi, a dirla va bene, le auguro buona fortuna. Vorrei a questo punto, per non dare l'impressione ai nostri ascoltatori che ci piace razzolare nel fango, riportare in termini lievemente più alti l'argomento, la dazione strategica, e per questo chiamo Giuseppe Scaraffia. Beppe, buongiorno. Buongiorno, eccoci, mi sto molto divertendo ascoltando. Ecco, Giuseppe Scaraffia, docente di letteratura francese, profondo e raffinato scrittore e analista della dazione strategica nella storia, ha scritto vari libri sulle datrici strategiche che hanno preceduto la contemporaneità. Femme fatale, edizione Vallecchi, e Cortigiane, 16 donne fatali dell'Ottocento, edizione Mondadori. Vediamo dove affonda le radici dell'attuale dazione strategica, Beppe. Ma innanzitutto, ecco, io vorrei spezzare una lancia in favore delle datrici, perché anche questa è un lavoro duro, specie se viene portato avanti fino in fondo. Ecco, poi dal punto di vista, visto che appena morto Levi-Strauss, dal punto di vista antropologico, potremmo dire che la datrice strategica è un personaggio ancestrale, nel senso che la sottomissione, no, al padre padrone, al potente che lo incarna. Ecco, e tre, sì, è una cosa immemoriale, veramente affonda, e soprattutto, cioè, la cosa divertente della datrice è che là, dove l'altra donna si arrende, dove l'altra donna si annulla, lei trionfa, cioè nel momento in cui cede lei vince. Ecco, Beppe, tu che hai analizzato la femme fatale, quella che chiamavano la belle dame sans merci, che era in fondo quella che oggi chiamiamo figa di legno, quella che prometteva sempre e faceva soffrire poeti e immaginatori. C'era un pregiudizio sociale nelle epoche storiche in cui tu hai analizzato, o queste succhiatrici di energia degli uomini in realtà erano considerate una sorta di dee cadute sulla terra e quindi giustificate? Dunque no, c'era un pregiudizio molto forte di cui loro se ne fregavano totalmente, che fossero delle cortigiane, non so, come Lola Montez, o che fossero delle aristocratiche come la Castiglione, operavano al di là. È anche questo che mi ha incantato, c'è la grande libertà interiore di queste persone e soprattutto, ecco, il loro non vedere il corpo, come dicono tante religioni, come il tempio di Dio. No, il corpo è una cosa che fa parte della realtà, è una cosa alla pari col resto. Dare il corpo è una cosa che ha un significato limitato, quello che è importante è la mente. Fra le figure che tu hai analizzato di cortigiane, ce n'è qualcuna in particolare particolarmente attuale, particolarmente moderna? Oggi potremmo fare un elenco infinito, oggi la dazione strategica attraversa tutte le classi sociali, ma la cortigiana, per il nome stesso, per la sua accezione stessa, bazzicava soltanto in alto loco, no? Beh, guarda, a me quella che è più divertito è una cortigiana inglese dell'Ottocento che si chiama Cora Pearl, che un giorno aveva una serie di persone a pranzo e dice: adesso vi servirò una carne che scommetto che nessuno di voi sarà in grado né di tagliare né di mangiare. Dopodiché ricompare su un immenso vassoio d'argento nuda. Salta giù dal vassoio, raccoglie i soldi della scommessa, torna in camera, si riveste e torna al tavolo. Un grande colpo, si può fare una volta nella vita però. Sì. Cioè, questa mancanza quasi infantile e gioiosa di pudore, che adesso si è diffusissima, ecco, adesso direi che c'è una specie di cortigianizzazione di massa anche per la nostalgia della femminilità di un tempo. Ecco, questa è la grande nota distintiva. L'assenza di pudore era una conquista artistica, poetica, letteraria nell'epoca che tu hai trattato. Oggi l'assenza di pudore in realtà è la mancanza di qualcosa, è un vuoto, mentre allora è un arricchimento. Assolutamente, adesso si tratta di obbedire a delle regole, cioè adesso abbiamo anche un superio erotico che poi è incarnato dalle pornostar, dai pornoattori, no? Adesso non bisogna non fare all'amore, non bisogna non essere licenziosi. Allora invece la licenziosità era una grande conquista. Beppe Scaraffia, ricordo, autore di Femme fatale, edizione Vallecchi, e Cortigiane, 16 donne fatali dell'Ottocento, edizione Mondadori, grande esperto delle datrici strategiche del passato e forse anche del presente, ma non vogliamo saperlo. Carla, buongiorno. Carla. Pronto, buongiorno. Vediamo il suo punto di vista sulla dazione strategica. Allora, io penso questo, siccome mi è successo diverse volte, penso che sia... Di dare o di assistere alla dazione? Com'è? Di dare o di assistere alla dazione, le è successo? No, di dare, diciamo, no? Però è sempre l'uomo che mi stuzzica, che mi ha stuzzicato, che ha accelerato questo processo, che l'ha risvegliato, che me l'ha fatto notare, ma non è mai partito da me. Cioè io non mi accorgo assolutamente se piaccio o se non piaccio, è sempre l'uomo che... Lei sa che sta mentendo, sì. No, sono una persona assolutamente... Cioè, vuol dire un punto debole, sai, è come dire quelle che soffrono il solletico sotto la pianta dei piedi. Se mi metti una piuma sotto la pianta dei piedi non resisto. No, non avrei motivo di mentire assolutamente. Diciamo che non mi sono mai accorta di quasi nulla, no? E sono sempre stata indotta dopo, mi è successo ultimamente, proprio settimana scorsa. Quindi lei la dà sotto ipnosi, una cosa del genere? No, io non arrivo a dare nulla, io parlo di... La dazione strategica, l'abbiamo detto, è una categoria dello spirito, dà il suo fascino, non alludo a oggetti concreti. Sì, no, infatti dico, è un fascino, è un interesse, si induce così a pensare che la persona sia affascinante, sia che possa piacere. Sì, ecco. Perché sento la sua voce rotta come dal rimorso, dal rimpianto? Non è felice di essere una datrice strategica? Ma sì, io mi trovo benissimo nella mia situazione, non faccio questo lavoro, non lo faccio per scelta, mi è successo diverse volte, l'ultima volta settimana scorsa mi ha fatto piacere, indubbiamente. E cosa è successo? Ce lo descriva velocemente. Velocissimamente, sono uscita a pranzo con delle amiche che conosco poco, c'era il marito e l'amante di una di queste amiche. Io non sapevo che fosse l'amante, sapevo che l'altro era il marito. Dopo qualche ora questa mia amica mi ha ritelefonato dicendo: sei piaciuta moltissimo a Raffaello. Che era l'amante o il marito? Era l'amante. Sì. E l'hai trattata attizzante da morire e io ho parlato di cose serissime, era di fronte a me. Quindi la sua amica le ha rifilato la scartina dell'amante di cui si voleva liberare, questo in semplice. No, non credo, perché è presissima, è la sua vita. Sentiamo velocemente su questa telefonata, poi diamo la linea alle informazioni del traffico, cosa dice la nostra esperta in azione strategica, Deborah Ferretti. Mi interessa molto la posizione della signora che dice di essere indotta alla dazione strategica. È un alibi non indifferente, che potrebbero, anzi, potrebbe diventare bandiera. E su questo passaggio fra amiche, di amante, di drudo, per la dazione strategica, cosa hai da dire? Che secondo me era il terzo elemento del gruppo, la signorina. Una fetta preponderante del nostro pubblico, tra cui anche Marco. Marco, buongiorno. Pronto, buongiorno. Io si può dire che ho a che fare tutti i giorni con le datrici strategiche perché lavoro in televisione, sono un attore e regista televisivo e ci capita spesso di dover fare per delle produzioni o delle ditte degli spot e di conseguenza di fare anche dei provinaggi. Io metto le mani avanti, non sono né un moralista né neanche gay, insomma le donne mi piacciono, però devo dire che tutte le volte che ho trovato qualcuna che voleva far leva sul suo fascino, chiamiamolo convenzionalmente fascino, diciamo la ragazza è stata sempre scartata direttamente, perché magari dietro a quello c'era il non saper fare un lavoro, il non essere professionali. Sì, è abbastanza smaccato la dazione strategica come dout des sul divanetto del produttore, del provinatore. Deborah Ferretti mi sta suggerendo un po' come l'ambiente del night, quasi l'anticamera di un night. È chiaro, voglio passare il provino e quindi mi ti offro 10 minuti veloce, ma la dazione strategica ci insegna Deborah Ferretti qualcosa di articolato e faticoso. Assolutamente sì, infatti mi riallaccio alla signorina dell'università che dice di avere sgobbato il doppio della datrice strategica che prendeva i 30 lode dopo aver risposto a una sola domanda. La dazione strategica è frutto di grandissima fatica, intanto ti richiede un'energia enorme, poi mantenere in piedi, reggere le fila quando hai più situazioni apparecchiate non è semplice, è frutto di grandissimo dispendio energetico che non sarà quello di infilarsi gli occhiali stare sui libri, ma è un artificio di altro tipo, voglio dire. Cioè, no, ma mantenere soprattutto su vari tavoli, varie situazioni, essendo sempre fresca con tutti, disponibile con tutti, carina con tutti, tenera con tutti, è faticosissimo, richiede un uso delle varie personalità. Perché estremo. La datrice strategica è una conoscitrice dell'animo umano eccezionale e sa dosare con tutti l'atteggiamento corretto, le modalità più significative, più azzeccate. E questo non è semplice, sei sempre sulla breccia, sei sempre al massimo. Sentiamo un po' d'uomini, ma mi piacerebbe ancora sentire qualche altra donna che ci parla della dazione strategica come esperienza di vita. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e complimenti. Io sono un triste assistente di questa cosa, però tranquillo. Senso che lei non ha mai sbattuto le corna con una datrice strategica, non me lo faccia credere. No, forse non ho voluto, meno male. Ma meno male, è un'esperienza da fare. Ho avuto della me. Lucidità, poi magari potrà succedere, non vado alla ricerca perché è dura. Ma è come il vaccino, lei è più esposto almeno 50 volte rispetto a un normale essere umano che si è rovinato la vita, le ossa e l'anima. No. Però io penso che queste persone sono le perfette attrici di se stesse, attori di se stessi, non hanno un'identità vera, è per quello che dice la sua... Ma è un male questo, secondo lei? No, non è normale, perché poi dopo, quando con l'andare dell'età, o quando qualcuno... Perché loro non lo fanno sempre per un ritorno, lo fanno perché devono avere, secondo me, una conferma a se stessi di essere... Loro si vendono anche alle altre persone a seconda della persona che hanno di fronte, Sì, ma questa è la caratteristica della datrice strategica, non lo stiamo vedendo come... Aprono una scuola di recitazione, sono delle maestre perfette, una memoria di ferro, mentono a se stessi in maniera estrema. non devono mai avere un 5 minuti di loro lucidità, perché sì, ma chiami minuti di lucidità e sincerità nei confronti del prossimo è sempre un rapporto di mercimonio. E questo però è grave sta cosa, perché ma porta... benvenuto nel genere umano, mi scusi, ma è grave, ma è così, tutti sì, noi abbiamo una strategia con il nostro prossimo. Le spiego. Se io tutti i giorni ho 10 persone davanti, che siano uomini o donne, voglio dire, al di là di quello, al di là del raggiungere l'obiettivo, perché poi diventa una patologia per qualcuno. Il narcisismo è un elemento primario nella relazione tra esseri umani, poi chiaramente ci sono delle punte esasperate. Deborah Ferretti, su quello che dice l'ascoltatore. Infatti tu dici il narcisismo è un elemento del genere umano. L'ha detto un mio amico psichiatra pochi giorni fa. Ma non è un elemento della datrice strategica, assolutamente, non è necessariamente narcisa la datrice strategica. C'è sicuramente una parte di esercizio del potere che ti può soddisfare per un momento della tua vita. E poi... Ha piacere carnale l'attrice strategica? Decisamente. Sì, diciamo, perché c'è che... questo luogo comune, lo fa, ma è di una freddezza, no? Anzi, ma l'esercizio della d'azione strategica è fonte di piaceri carnali enormi. Inenarrabili. Ma fosse soltanto la questione della casistica. Più affronti la situazione, più possibilità hai di incappare in orgasmi strepitosi, in incontri eccezionali, in natiche durissime, che ti devo dire... Non lo so, poi quello che piace. Non Alberto, possiamo, buongiorno. Tutto. Alberto, io intanto devo intanto frenare Deborah Ferretti, perché nella sua vena immaginifica della d'azione strategica tocca zone che vanno soltanto sfiorate, perché poi le nostre ascoltatrici si fanno prendere il coccolone e i nostri ascoltatori, ahimè, aggrottano le ciglia. Alberto. Sì, buongiorno. Sì. Allora, io porterei la mia esperienza di diversi anni. Cosa? Di datore o d'attrice strategica? No, purtroppo di spettatore di questa cosa. Ma tutti guardate, ma nessuno ci sbatte la faccia. Ce ne fosse uno che ha detto... No, guardi... qualche. Cioè, io posso dire, visto che mi metto in gioco sempre, ma io avrò sbattuto la faccia almeno 10 volte nella mia vita con casi gravi di datrici strategiche. E ancora lo farò, probabilmente. Direi di più, ma ormai purtroppo sto arrivando... nell'età critica, vicino alla pace dei sensi, ho 58 anni. Vada, lo dica qualcun altro, quasi anch'io ho 58 anni. Io qualche... parlo per me chiaramente. Dicevo, mi occupo di assicurazioni. Scusi, Deborah Ferretti, devi dire una cosa, perché lei ha detto una cosa che va sì, sottolineata. In questa lenta deriva verso l'andropausa, lei è molto, molto vulnerabile. Al cromosoma benefattore della datrice strategica. Ci sono alcuni casi in cui la datrice la dà gratis, e appunto l'anzianotto che batte gli ultimi colpi è proprio una di queste categorie. Con lo stesso gesto di pietà e di consapevolezza in cui le cambierebbe il catetere, gratis si concede a lei, capisce? Questo è il problema. È molto miserrimo da parte dell'uomo, però è così. Vabbè, la lascio alla triste commiserazione del suo non aver dato abbastanza alle datrici strategiche. Giovanni. Buongiorno. Eccomi. Buongiorno. Deborah con l'H, immagino. Ovviamente, cioè, sia davanti che dietro. Ecco, inizia con l'H e termina con l'H. Libro. Allora. Arriviamo subito al punto. Sì. Esiste anche un manuale per difendersi. Bisogna difendersi, secondo lei? No, difendersi no, ma utilizzare la situazione a nostro vantaggio. E come, secondo lei? Guarda, io lavoro nella comunicazione, quindi puoi immaginare... Quindi nella fuffa. Quanto... esatto. Quindi, intanto fingersi indifesi, assolutamente indifesi. Questa è la prima cosa. Ok, ma quando ci infila le zanne nella giugulare... E poi lo siamo veramente indifesi. Ma guarda che poi nel momento in cui lei si finge indifeso non sa che non è finzione. È la datrice strategica che la sta inducendo a pensare che lei può fare la parte dell'indifeso. Non lei si preoccupi. Denota un'esperienza inarrivabile. Ho scritto un manuale, ho dovuto incontrare moltissime datrici strategiche, esatto. E ascoltare tante storie. La prima cosa è evitare quelle di lungo corso. Cioè prenderle all'inizio della carriera. Quando inizia la carriera, secondo lei? Non c'è un'età, ci sono alcune che cominciano a 8 anni. quelle già di mezza età, ce ne sono alcune che iniziano ancora prima. Beh, adesso stiamo sfiorando il paradosso, ma no, in effetti un atteggiamento... L'atteggiamento seduttivo, sì. Esatto. Però direi che sul lavoro, giovani laureate... appena fatto il master arrivano in una grande azienda o di comunicazione, cominciano a guardarsi intorno. Beh, non a caso esistono le facoltà di scienza della comunicazione, quindi evidentemente ci sono solide basi. Mi dispiace per Enrico. Enrico è stato vittima di una datrice di strategica? Sì, praticamente io ho finito un master, ero in un'azienda, diciamo, velocemente, la sigla lo porta via. Esatto, e mi è stato detto dalla capo ufficio, una signora di 45-50 anni, che purtroppo non c'era posto per me, perché la crisi, perché la mia alta professionalità. E praticamente ho scoperto successivamente che lei, essendo in ottimi rapporti con uno dei soci, ha piazzato il figlio. Suo figlio. Bene, sta accadendo anche all'Università di Padova, pare, con il figlio di un ex rettore, quindi osserviamo con attenzione quanto la dazione strategica entra anche nel mondo dell'Accademia. Grazie Deborah Ferretti per le preziose informazioni che ci ha dato e ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828-1111 Radio 24. La passione si sente.